E la prima notizia che leggiamo è quella più fresca. Ieri si sono tenute in Colombia le elezioni amministrative per eleggere sindaci, consigli comunali, governatori di dipartimenti di questo paese. E come al solito, come succede ormai da decenni in questo paese straziato dalla violenza finanziata dalle multinazionali e dai grandi proprietari del terrieri del paese, legacy portata avanti dall'esercito stesso e dai paramilitari, in questo paese dove la popolazione è completamente sfiduciata giustamente dai propri governanti, che sono gli stessi che gli mandano contro i soldati a farli fuori, a reprimerli. In questo paese l'astensione è stata ancora una volta enorme. Pensate che nella capitale Bogotà, che si presume anche la città più lontana dal conflitto, visto che la guerra a Bogotà non c'è, naturalmente sta nei territori più vicini alla foresta, più periferici rispetto alle grandi città, e persino a Bogotà l'astensione è stata del 75%. A Bogotà è stato eletto un sindaco di centrosinistra, come d'altronde di centrosinistra erano stati gli ultimi due sindaci del paese, quindi un sindaco, una formazione, quella del Polo Democratico Alternativo, che è all'opposizione del governo prima di Uribe, ora di Santos, ma in ogni caso evidentemente non risponde le richieste, le posizioni politiche del popolo colombiano, che ancora una volta ha disertato massicciamente le urne. E abbiamo conservato qualche notizia arretrata perché l'avremmo voluta dare lunedì scorso, ma purtroppo per cause superiori non siamo riusciti ad andare in onda. Per esempio questa notizia che riguarda le deportazioni di immigrati degli Stati Uniti: sono stati capaci di battere il loro record, naturalmente un record negativo, ben 396.906 immigrati, quindi praticamente 400.000 persone deportate dagli Stati Uniti durante l'anno fiscale 2011, che si è concluso il 30 settembre, quindi presumibilmente dal 30 settembre del 2010 al 30 settembre del 2011. La grande, gloriosa e democratica polizia degli Stati Uniti ha deportato 400.000 persone, di cui il 55% sono persone che hanno commesso delitti gravi o minori, quindi un qualsiasi tipo di crimine secondo le leggi statunitensi, mentre il 45% sono stati deportati in Messico o nei paesi dal Centro America, dove a milioni ogni anno partono per cercare un qualche tipo di speranza negli Stati Uniti. Questo 45% era solo naturalmente colpevole di essere un immigrato clandestino. E naturalmente va ricordato che in Centro America questi disgraziati fuggono da una situazione disastrosa che gli stessi Stati Uniti hanno contribuito a creare. Saprete di tutti i movimenti di resistenza più o meno armati che per tutto il Novecento si sono sviluppati in questi paesi, movimenti repressi selvaggiamente da mercenari pagati dagli Stati Uniti fino alla fine degli anni 90, quando si sono avviati i processi di pace tra gli stati e le guerriglie. Quindi gli Stati Uniti sicuramente hanno qualche responsabilità, per usare un eufemismo, sulla situazione che si vivono i cittadini dei paesi centroamericani. E proprio due settimane fa il Centro America ha vissuto una settimana da incubo con delle piogge torrenziali che hanno causato decine di morti, più di 80 persone in Salvador. Il Salvador è stato il paese più colpito, sono morte almeno 32 persone e 20.000 sono state evacuate. Questa che a prima vista potrebbe sembrare una catastrofe naturale, come purtroppo abbiamo dovuto definire tale il terremoto di Haiti o lo tsunami del Giappone, invece naturalmente c'è un'origine naturale, quella di piogge torrenziali, che tra l'altro non è tanto naturale perché è amplificata dall'effetto serra. Gli stessi esperti, gli stessi membri del governo salvadoregno hanno accusato il cambiamento climatico di essere all'origine di queste piogge che ormai sempre più massicciamente investono il Centro America e i Caraibi, e naturalmente viene amplificata nei danni dalla situazione ambientale di questi paesi, perché una pioggia torrenziale che incontra territori privati degli alberi sul suo cammino crea dei fiumi che non vengono bloccati da niente, la terra non riesce a assorbire l'acqua, anzi l'acqua si porta via la terra e crea dei grandi fiumi di fango, delle frane, e si rovescia su queste catapecchie in cui sono costretti a vivere le popolazioni più povere del Centro America. Proprio su questi effetti drammatici della crisi ambientale dell'America Latina, ma che naturalmente vive tutto il mondo, abbiamo dedicato l'anno scorso un ciclo di trasmissioni che potete riascoltare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org, e appunto ci sono le registrazioni di 5 trasmissioni che basandosi su delle ricerche e un atlante dell'agenzia dell'ONU sull'ambiente, quindi nemmeno di un organismo che dovrebbe attenuare più che esagerare la situazione climatica ambientale del pianeta. E lì appunto abbiamo spiegato come avvengono questi fenomeni, quali sono le cause, qual è la situazione generale. Quindi per chi voglia informarsi maggiormente consiglio di andare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Ora, prima di continuare alla nostra trasmissione con le altre notizie e qualche parola in più da spendere sull'Argentina, vi lascio con una pausa musicale, una canzone dedicata a Camilo Cienfuegos, eroe della rivoluzione cubana, che appunto il 28 ottobre, tre giorni fa, ricorreva l'anniversario della sua morte, e quindi gli dedichiamo questa canzone. Es cierto que te hayas muerto, Camilo. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño. Muerto. respiro del machete campesino y del fusil del obrero. Porque vive tu presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Soldado por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria, vivo en la reforma y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Muy bien, Camilo. E restiamo nei Caraibi con le notizie che ci arrivano dal Latino America. La prima notizia è quella che ci viene dalla Repubblica Dominicana, dove una relazione di Amnesty International addirittura ci dice che nei primi 7 mesi del 2011 la polizia ha ucciso 154 persone, 29 in più del 2010. Per loro questo è, per la polizia dominicana, è il simbolo del loro attivismo, della loro, dei loro grandi risultati anticrimine, ma come precisa la stessa relazione, queste sparatorie, almeno così definite dalla polizia, nella maggior parte dei casi sono abusi commessi dalle forze dell'ordine. E poi, oltretutto, sempre secondo questa organizzazione, solo pochi di questi casi vanno a finire in tribunale a causa dei difetti, dell'inefficienza o della corruzione delle indagini. Ma questo, come abbiamo avuto modo di parlare più volte rispetto al Brasile, rispetto allo stesso Centro America e altri paesi del Sud America, è appunto una situazione diffusa in tutta l'America Latina e purtroppo in misure diverse, naturalmente, diffusa in tutto il mondo. Altro tipo di repressione invece è quella che ci racconta un articolo rispetto all'altra parte dell'isola di Hispaniola, quindi a ovest della Repubblica Dominicana, nella martoriata Haiti, dove tutti pensano che la popolazione vive solo grazie alle sovvenzioni dei programmi delle Nazioni Unite o degli altri organismi internazionali dopo il terremoto e dopo il colera che hanno ucciso decine di migliaia di persone in quest'isola di 9 milioni di abitanti, con già gravissimi problemi economici e sociali prima del terremoto. In realtà ci sono alcune fabbriche nel paese, fabbriche naturalmente di assemblaggio impiantate da multinazionali tessili, sia statunitensi che europee. E cosa sono le fabbriche di assemblaggio? Sono fabbriche dove queste multinazionali portano dei pezzi da mettere insieme ad un costo naturalmente del lavoro bassissimo rispetto a quanto avrebbero speso nei loro paesi, nei paesi dove operano. Quindi non c'è nessuna competenza tecnica che invece magari viene impiegata maggiormente nella costruzione dei pezzi, dei semilavorati, che vengono fatti invece nei paesi dove operano queste multinazionali. E in paesi come Haiti, come il Messico, come il sud-est asiatico, come tutti gli altri paesi della periferia dell'economia mondiale, invece i pezzi vengono messi insieme a salari minimi e a condizioni anche sindacali, come vediamo in questo articolo, pessime, inesistenti, senza possibilità per i lavoratori di organizzarsi e di rivendicare i loro diritti. Questo è il contraltare delle grandi parole spese dai governi degli Stati Uniti e dell'Europa e dagli organismi internazionali quando parlano di investimenti in questi paesi distrutti da una situazione economica e sociale terribile, da in questo caso anche condizioni catastrofiche non dovute alla situazione precedente. Quindi nelle fabbriche di tessile di Port-au-Prince, la capitale di Haiti, lavorano ben 29.000 persone, quindi riescono o dovrebbero riuscire con i loro salari a mantenere anche le loro famiglie, a far entrare in circolo quei soldi e riuscire a dare un minimo di dignità della vita anche ad altre migliaia di persone, ma le condizioni sindacali, le condizioni lavorative di questi lavoratori sono disastrose e non riescono a migliorare, anche perché come viene riportato in questo articolo, i dirigenti di fabbrica non fanno che colpire ogni tentativo di sindacalizzazione, e ad esempio quelli di marchi come Heinz e Gap hanno licenziato chi avevano scoperto a diffondere volantini che proponevano la nascita, l'aumento di l'aggregazione a un sindacato dei lavoratori legato a Batte Ouvri, un partito della sinistra haitiana. Ad Haiti c'è una sola fabbrica sindacalizzata delle 23 che sono in funzione. A Port-au-Prince non c'è nessun tipo di sindacato. Queste sono le notizie che ci arrivano da Haiti. Ed ecco qui una notizia ormai piuttosto vecchiotta di qui 10 giorni fa, ma che vale veramente la pena di essere letta. Come voi sapete, da mesi ormai in Cile gli studenti hanno innalzato una grande mobilitazione per un cambiamento radicale nel modello dell'istruzione universitaria del paese, un'istruzione universitaria che è basata su delle grandi università private alle quali per accedere è necessario pagare delle tasse enormi che si aggirano attorno ai 30 ai 40 mila dollari al mese, che sono tanti, sarebbero tanti sia per un americano sia per un europeo come noi, ma in Cile sono ancora di più. E questo è un modello che è stato affermato durante la dittatura di Augusto Pinochet, che comunque è terminata nel 1990, e i governi seguenti che di coalizione tra i democristiani e i socialdemocratici non hanno cambiato. Gli studenti hanno iniziato a protestare qualche mese fa e ci sono stati anche i primi scontri con la polizia. Qualche settimana fa, appunto, ci sono stati degli scontri che hanno portato all'arresto di 110 compagni e al ferimento di altri 27, poi altre centinaia d'arresti, quindi all'incirca 400 arresti da due settimane fa fino a una settimana fa. E questo è avvenuto anche in occasione di una grande manifestazione di 200.000 persone. E sentite come si è espressa la celeberrima Camilla Vallego, un caso mediatico internazionale più per il suo aspetto che per l'interesse delle posizioni politiche degli studenti cileni. Si sa che i nostri giornali liberi e democratici occidentali, questa grande ricchezza che abbiamo qui in Occidente, tendono più al gossip, alle curiosità, alle cazzate che a informare sulle cose più interessanti. Questa leader studentesca del Partito Comunista ha affermato: non può essere che la polizia non abbia la capacità operativa e logistica per isolare quei manifestanti o per arrestarli, riferendosi appunto ai violenti delle manifestazioni studentesche in Cile. Questo, diciamo, a noi ci ricorda le posizioni di qualcuno qui in Italia di qualche giorno fa. Chi lasciamo perdere, andiamo avanti. De soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Voy. Dedicación especial para la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para los pueblos indígenas en resistencia del mundo entero, para la gente que se levanta, la que construye, la que avanza, librando una guerra contra el olvido. Los años siguen pasando y seguimos en el camino, aquí y seguimos en el camino, allá. Yo prendí una vela por la esperanza, y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza, un mar de luces avanza. Oh, esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen si la semilla se riega, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen si la semilla se riega, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso nosotros somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas caminando, se va construyendo la senda. La dignidad rebelde levanta la voz. Que no se excluya nadie más en esta nación. Desde Tijuana al mundo entero exigimos respeto. Respeto para la gente y para sus derechos. Un mundo donde quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para vencer. No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para vencer. Ya lo dice La Sexta, en la unión está la clave. Tú sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Latinoamericana. Vi ricordo, per chi si fosse connesso solo ora su queste frequenze radio, che per l'ultima volta andiamo in onda dalle 17.30 alle 18.30. Da settimana prossima l'orario sarà dalle 16.30 alle 17.30, quindi semplicemente un'ora prima, così lasceremo questa fascia oraria a impatto una trasmissione che informerà, darà voce ai movimenti contro le nocività. E quindi da settimana prossima, per chi voglia ascoltarci, oltre a poter andare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org e ascoltarsi le vecchie trasmissioni registrate e messe sul sito, può ascoltarci accendendo la radio un'ora prima alle 17.30, sempre sugli 87.900 della modulazione di frequenza. Negra la tisa, negra blanca nieve, negra Mona Lisa, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Ed ecco una notizia, un aggiornamento su una notizia che avevamo dato qualche settimana fa, 2 settimane fa, riguardo alla grande opera infrastrutturale progettata dal governo boliviano di concerto con altri paesi della regione, una grossa autostrada che doveva attraversare un parco nazionale dove vivono anche alcune decine di migliaia di indigeni che non erano stati consultati per la costruzione di quest'opera, come impone la stessa Costituzione scritta e approvata dallo stesso governo boliviano di Evo Morales, anche lui indigeno. C'erano state grandi proteste contro la costruzione di questa autostrada, un'autostrada che è all'interno di un piano di costruzione di infrastrutture regionale che si chiama IRSA, scritto IIRSA, per chi volesse informarsi di più. E questo piano infrastrutturale serve a collegare il Brasile e la Bolivia con la costa pacifica del Sud America, quindi andrebbe a finire in Perù e poi da lì le merci trasportate su questa autostrada possono prendere via marittima per raggiungere i mercati dell'Asia, che sono sempre più legati con il Sud America. La Cina è il primo mercato del Perù e del Cile e dell'Ecuador, che sono i 3 paesi che si affacciano solo sul Oceano Pacifico. Gli indigeni, insieme alle popolazioni del luogo, avevano costruito una grossa mobilitazione con una marcia che doveva raggiungere, una marcia di 2 mesi che doveva raggiungere la capitale La Paz, e lì incontrarsi, pretendere un incontro con il governo. Questo corteo era stato aggredito dalla polizia poco dopo la partenza. Ci sono state anche le dimissioni di alcuni ministri del governo Morales per l'atteggiamento tenuto dalla polizia. Lo stesso presidente ha detto che la polizia aveva agito senza ricevere tali ordini dal governo. Noi su questa cosa abbiamo già a suo tempo espresso la nostra perplessità, perché una repressione del genere, se la polizia decide autonomamente di farla, c'è evidentemente qualche problema. Hanno poi accusato gli indigeni di essere manovrati dalla destra del paese e dalla CIA, ma questo ci sembra un po' un alibi che questi governi di sinistra dell'America Latina tirano fuori ogni qualvolta c'è una forma di opposizione al loro governo. Tant'è vero che poi il governo Morales, e questa è la notizia fresca qualche giorno fa che noi diamo oggi per la prima volta, ha ritirato questo progetto, la costruzione di questa autostrada, dopo che il corteo degli indigeni ha raggiunto La Paz con un corteo di 1200 indigeni delle terre basse boliviane, accolto anche dopo 64 giorni di cammino, accolto da decine di migliaia di cittadini della capitale boliviana. E prima di concludere con qualche parola sulla situazione argentina e le elezioni che hanno confermato al governo del paese il Frente para la Victoria di Cristina Fernández de Kirchner, ci concediamo tutti una canzone molto bella, Las Hormiguitas di Daniel Biglietti. Nació en un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de Hormiga. Y azules, con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar con sus hojitas de yerba mate. Las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Ed eccoci finalmente in Argentina, 10 anni dopo la crisi economica che ha portato l'economia argentina e la società argentina sull'orlo del baratro. Ora la situazione è totalmente cambiata e di questo si avvale anche il governativo, la coalizione governativa Frente para la Victoria, che ha governato il paese dal 2003 fino ad oggi e si appresta a farlo almeno per altri 4 anni, viste le elezioni del 23 ottobre scorso, che hanno confermato alla presidenza del paese Cristina Fernández de Kirchner, la presidentessa uscente e moglie del defunto Néstor Kirchner, che invece aveva governato dal 2003 al 2007 e che, se non fosse morto l'anno scorso, probabilmente sarebbe stato lui il candidato di quest'anno. Invece appunto è morto e la moglie ha continuato a guidare questa coalizione. Altro dato da registrare è quello di un'astensione bassissima, la più bassa degli ultimi 20 anni, solo il 21% di astensione, che appunto si era portato a altri paesi dell'America Latina come la Colombia, di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, dove a Bogotà alle elezioni per il sindaco ha votato solo il 25% degli aventi diritto. Ci accorgiamo che evidentemente questa coalizione è riuscita a accumulare un largo consenso. Pensiamo che la presidentessa ha vinto al primo turno delle elezioni presidenziali con il 54% dei voti e il secondo candidato ha preso solo un socialdemocratico, ha preso solo il 16%. Questo consenso evidentemente nasce dalla fase di crescita economica che vive l'Argentina, come la vivono altri paesi del Sud America, come uno su tutti il Brasile, una crescita economica che però non va a vantaggio di tutta la popolazione, anche se evidentemente poi nella trappola elettorale molti cascano anche per altre scelte del governo del Frente para la Victoria, che possono avergli aperto delle brecce a sinistra, come la concessione di alcuni piani di assistenza sociale che però spesso vengono gestiti con metodi clientelari, quindi da organizzazioni locali di quartiere legate alla coalizione di governo, che distribuiscono amici e parenti che gli garantiscono il voto questi assegni familiari, questi assegni per i figli dei disoccupati e così via, o altre scelte come quella di iniziare i processi ai criminali della dittatura dei Argentina, dittatura che è durata dal 76 all'83, che fino alla vittoria di Kirchner, quindi per 20 anni, era garantita da leggi che ne consentivano l'impunità. Altra scelta, quella dei matrimoni per gli omosessuali, che evidentemente ha consentito di allargare il consenso anche a sinistra. Quali sono però le note dolenti? Le note dolenti sono che questo governo e il modello economico che ha proposto sono totalmente votate e basate sull'esportazione di prodotti agricoli, prodotti in grandi imprese agroindustriali che riguardano soprattutto i cereali e la soia transgenica. Abbiamo parlato qualche mese fa delle condizioni drammatiche, praticamente schiavistiche, in cui lavorano nei campi, in queste grosse fattorie i lavoratori, i contadini, i braccianti argentini. Altro pilastro di questa crescita economica sono le miniere a cielo aperto, come quelle di oro nel sud del paese, che anche esse con gravi danni ambientali che purtroppo in molti casi si vedono solo sul lungo termine. Altro pilastro sono sempre le fabbriche di assemblaggio di, in questo caso, di autoveicoli, e quindi un'economia tutta basata sull'esportazione. Pensate che il 70% della soia prodotta, visto che ne viene prodotta tantissima, viene esportata. Quali sono i rischi di questo tipo di economia? Oggi che le esportazioni vanno bene, che la Cina continua a esportare la soia, l'Argentina aumenta le sue entrate, l'Argentina, il governo argentino ha a disposizione più soldi per questi piani sociali. Domani che il prezzo della soia potrebbe crollare, come è successo in tutta la storia del Sud America e degli altri paesi che sviluppano questi rapporti di dipendenza dal mercato internazionale dei paesi del centro dell'economia capitalista, tutta l'economia del paese ne rimane danneggiata e vengono approvati tagli al bilancio finanziario, eccetera eccetera. È successo in passato per il petrolio per il Venezuela, è successo con il cacao per il Brasile, e purtroppo succederà per sempre fin quando questi paesi non decidano per una politica di sovranità alimentare, quindi di produzione degli alimenti che servono al proprio fabbisogno e non delle merci che in quel momento tirano sul mercato internazionale, perché poi quando queste merci non vengono richieste più, tutta l'economia, basandosi su il ricavato della vendita di queste merci, crolla e non si hanno nemmeno i soldi per comprare all'estero i prodotti alimentari che invece prima potevano essere comprati. Maestros y abuelos lo han constatado desde el principio de los tiempos, esta luz se nos ha revelado y que ha pasado hemos ignorado, muy poco asimilado, mentes estrechas y cerradas fomentado, estancados en un fango de conceptos y doctrinas, de sistemas de creencias que no nos unifican, más bien separan y dividen como fronteras, religiones que en nombre de Dios. Altro dato è che, sebbene la disoccupazione sia calata, nel 2002 il momento massimo della crisi era al 21,5% e oggi è al 7,3%, addirittura un terzo degli impieghi dei contratti di lavoro degli argentini sono contratti di lavoro precari, quindi anche questi funzionano fin quando l'economia regge. Quando per un motivo o per un altro, soprattutto per la stessa natura ciclica di questo sistema economico, l'economia crolla, tutte queste persone verranno licenziate senza nemmeno un briciolo di garanzie. E questo quindi mostra la debolezza, come al solito, di questa crescita economica che oggi si trova all'apice, che oggi fa buona pubblicità al governo e che quindi gli porta anche tanti consensi, perché naturalmente ci sono più entrate per tutti, anche per chi ha poco magari riesce a ottenere qualche briciola in più, e quindi c'è consenso verso questo governo. Ma appunto è una situazione economica temporanea e purtroppo crediamo che alla fine verrà pagata. Puro bla bla bla y nada de verdad contigo, puro bla bla bla, mentiras sin parar, puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz, la voz. E ora concludiamo la nostra trasmissione. Come ho detto già in apertura di trasmissione, per l'ultima volta in questo orario, dalle 17.30 alle 18.30, da lunedì prossimo trasmetteremo a partire dalle 16.30 sempre su gli 87.9 di Radio Onda Rossa, per lasciare spazio invece in questo orario a Impatto, la trasmissione che darà voce ai movimenti contro le nocività. Ora, come al solito, a seguire il Tappabuchi, la trasmissione dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Noi quindi ci risentiamo lunedì prossimo, ricordatevi bene, a partire dalle 16.30. Un saluto a tutti e a tutte quelle che ci hanno seguito finora, in particolar modo chi lo ha fatto privato della propria libertà personale. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos, el del guerrillero que todos sabemos.